Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Se non fosse sabato non ve lo diremmo, ma siccome è sabato... No, meno male, siamo qui, io e te. Ciao Federico. Ciao Chiara. Allora, partiremo con un interrogativo. Ma non è che con i nuovi strumenti multimediali, internet compresa, torneremo un po' indietro nel tempo? Il nostro cervello regredisca, chi lo sa. E poi parliamo invece di una faccia robotica utilizzata niente poco di meno che per promuovere l'ultimo film di Ridley Scott, Morgan. E infine Proxima B, il pianeta che dovrebbe essere quasi come noi, non lo sapremo mai, o lo sapremo? Forse c'è un russo ricco che potrebbe darci una risposta. Sentiamo. Dunque, dicevamo poco fa nei titoli, ci si può interrogare oggi se questo insieme, questa grande massa di informazioni che ci arriva... quasi. Non se n'era mai vista tanta, che ci arriva ovviamente dalla rete, ma in generale, diciamo, con la trattazione digitale dei contenuti, non possa avere un risvolto. Da una parte ci sono certamente delle cose positive, dall'altra ci potrebbero essere dei risvolti negativi, soprattutto se guardiamo un po' avanti dal punto di vista della produzione di conoscenza, della capacità di aderire alla conoscenza. E anche forse della nostra evoluzione come homo, ecco. Adesso proveremo a sentire perché ne parliamo? Perché sono qui con noi Claudio Tuniz, che salutiamo. Buonasera Tuniz. Buonasera. È scienziato del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste, ed è qui con noi anche Patrizia Tiberi Vipraio. Buonasera. Buonasera. E lei si è sempre occupata di economia politica e poi ha portato avanti dei progetti interdisciplinari, appunto. Che sì, hanno, diciamo, come base... che voi due, tutti e due, partite da discipline che possono essere interpretate in modo molto però sono anche in grado, no, di mischiarsi, di ibridarsi con altri contenuti. Voi domani parteciperete, domenica partecipate è uno degli appuntamenti del Festival della Comunicazione che c'è a Camogli. Il tema, insomma, è questo che dicevamo prima, no, Tuniz? Sì, il tema è oltre natura, cioè come abbiamo fatto andare oltre quello che potremmo considerare i limiti naturali di un animale come noi. Infatti bisogna guardare al passato, perché fino a circa 100.000 anni fa eravamo in pratica non diversi da tanti altri animali, anche se sapevamo usare strumenti e via dicendo. Dopodiché abbiamo imparato a comunicare, quindi la comunicazione è la parola chiave, come per il festival, anche per l'evoluzione umana, perché comunicando attraverso vari tipi di linguaggio si riescono ad aggregare Homo sapiens sempre di più come numero, e si riesce attraverso delle particolari capacità emerse dalla nostra rete di neuroni, si riesce ad accumulare e a spartire tutte le conoscenze che vengono fatte. Quindi questa è la prima volta che una creatura, chiamiamola così, non in senso creazionistico, riesce a sviluppare questo tipo di capacità. E mettendo assieme tutti i nostri cervelli abbiamo avuto appunto una traiettoria che è andata dall'essere degli spazzini della savana, quando sviluppavamo i primi strumenti di pietra, a diventare cacciatori di prede con degli strumenti ancora migliori che richiedevano di spartire e di comunicare in modo migliore, formare gruppi sempre più ampi. Poi è noto che siamo diventati degli agricoltori e degli allevatori, e dopo molto velocemente siamo arrivati, attraverso le grandi civiltà, siamo arrivati a 7 miliardi di Homo sapiens, tutti collegati in pratica attraverso l'internet. Magari Patrizia potrebbe adesso dare un commento come scienziata sociale su cosa vuol dire dal punto di vista, appunto, come specie e come individui, è avere 7 miliardi di persone connesse attraverso l'internet. Perché Patrizia, la vostra tesi è che questi grandi strumenti agiscono anche su come funziona la nostra testa, con un effetto, possiamo un po' brutalmente definirlo anche proprio fisiologico, psicologico, no? Sì, Esattamente, ma il punto chiave secondo me è che noi nell'aggregarci abbiamo dovuto crearci delle regole e mettere ordine nelle nostre comunicazioni, no? Perché noi comunichiamo sia fra noi come individui, ma anche noi comunichiamo attraverso gli oggetti che usiamo e attraverso l'ambiente in cui siamo inseriti. Quindi la comunicazione nel nostro caso è diventata sempre più complessa, perché man mano che inventavamo strumenti, è vero che immaginavamo questi strumenti nella pietra, quindi eravamo già dotati di capacità di immaginazione nell'individuare, per esempio nella nostra mente, una freccia dentro un sasso, no? E poi lavorarla in modo che questa diventasse freccia. Ma abbiamo anche potuto, attraverso questi strumenti che siamo stati in grado di costruire, evolverci trasformando queste cognizioni e queste idee in qualche cosa che facesse anche da connettore sociale, perché poi insegnavamo e trasmettevamo quelle che poi abbiamo chiamato culture. Per cui si trattava, guardando indietro nel tempo, di un processo che evolveva in maniera sempre più ampia per poter aggregare sempre più uomini, solo che a un certo punto non è stato possibile aggregarne soltanto pochi, come per esempio fanno altre specie vicine a noi, non so, gli scimpanzé possono al massimo aggregarsi in 50 scimpanzé per organizzarsi nelle loro battute di caccia. Noi siamo stati in grado di aggregarci fino ad arrivare a 7 miliardi di persone che comunicano, quindi abbiamo dovuto inventarci tutta una serie di mondi frutto della nostra immaginazione per riuscire a fare questa cosa così complicata. Ecco, ma secondo voi siamo arrivati ad un limite, cioè ad un limite anche un po', se vogliamo, negativo, catastrofico, oppure c'è una possibilità, insomma, di evolvere sia dal punto di vista fisiologico sia dal punto di vista appunto dell'informazione e sociale, e trovare magari dei vantaggi, ecco, in questo tipo di... Perché voi dite che c'è un pericolo di avere molta informazione e poca capacità di conoscenza, no? Che ero recentemente a una conferenza proprio sull'insegnare alle macchine, ai computer, a come mettere ordine tra questi che abbiamo adesso 8 miliardi di oggetti abbiamo, sì, nell'internet come cose, come comunicazione. Segnali, lei intende 8 miliardi di oggetti connessi alla rete? Sì. Bisogna insegnare alle macchine, e c'è una miriade di dati che sono anche, come dicono, non formatati, non strutturati, quindi devono essere le macchine che li prendano, li organizzano, e noi perdiamo sempre di più il controllo su questi dati e su questa informazione che abbiamo nell'internet, per cui stiamo delegando appunto sempre di più alle macchine il potere di poter controllare questi dati, e poi ci danno indietro quello, insomma, che viene reputato dalle macchine, dai computer, adatto per noi. Quindi nel breve termine questo ci va molto bene, nella scienza si può appunto utilizzare queste grandi quantità di dati, ma anche nelle applicazioni industriali, economiche, però ci sono altri effetti. Patrizia, aggiungere. Ecco, sì, magari una battuta finale. È importante, secondo me, non buttare via il bambino insieme all'acqua sporca, nel senso che è vero che ci sono degli effetti negativi di retroazione sulla nostra mente quando deleghiamo troppo alle macchine compiti che dovremmo svolgere noi. Quindi ci sono sicuramente degli effetti di minore memoria, ci ricordiamo meno le cose perché ci fidiamo troppo dei dati già catalogati nei vari strumenti di cui disponiamo, e così via. Ma il punto è che rischiamo di essere sempre più dei cacciatori raccoglitori di informazione più che dei produttori di conoscenza, perché è molto comodo, no? Andare semplicemente a cercare informazioni per sopravvivere, e ci ragioniamo sempre meno sulle informazioni che raccogliamo sulla rete. Ecco, bisogna stare molto attenti che non si verifichi in futuro che i nostri figli e i nostri nipoti diventino degli scavenger, cioè dei raccoglitori degli ultimi brandelli di informazione che la rete lascia a disposizione di chi non è in grado di elaborare concetti. Quelli di bassa qualità, certo. Di bassa qualità, e che ci siano poi dei grandi predatori di conoscenza che saranno quelli che dalla rete avranno i maggiori profitti. Va bene, allora per chi volesse approfondire ricordiamo l'appuntamento per domani alle ore 17 a Camoglia, la terrazza delle idee. Intanto buon lavoro e buona ricerca a tutti e due. Grazie. Grazie. Arrivederci. Velocissimi, sulle strade, cosa sta succedendo? Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ascoltate queste voci, sono da un trailer di quale film? Il film in uscita che si chiama Morgan, che è il film atteso prodotto da Ridley Scott e diretto dal figlio Luke. Sentiamo. Siamo felici che tu sia qui. Immagino che non sia del tutto vero. Dottore Lee Weathers, della sede centrale. Ho bisogno di alcune informazioni su Morgan. Morgan era il nostro terzo tentativo, la nostra piccola scoperta. Un passo avanti nell'evoluzione. Bioingegneria con DNA sintetico. Nell'arco di un mese camminava e parlava. Nell'arco di 6 mesi ha superato qualunque nostra aspettativa. Federico, insomma, non sarà sfuggito agli ascoltatori, e senza svelare troppo del film, insomma, si parla di questo Morgan che è un essere vivente, quindi un bambino che è stato prodotto in laboratorio da ingegneria appunto sintetica, da DNA sintetico. Ma perché ne parliamo? Non entriamo tanto nel dettaglio del film. No, andiamo in un altro laboratorio. Sì, perché esattamente questo trailer, ovviamente in lingua originale, è stato utilizzato all'interno del laboratorio, di uno dei laboratori del centro Piaggio. Enrico Piaggio non ha niente a che vedere con la Piaggio, era un ingegnere a cui è stato dedicato questo grosso centro di robotica e molte altre cose che si trova a Pisa. Questo trailer è stato mostrato appunto ad un robot che si chiama Face. Intanto direi di introdurre il responsabile scientifico di Face, Daniele Mazzei. Intanto benvenuto, Daniele. Buonasera, grazie. Allora Daniele, io l'ho anche visto Face, abbiamo delle foto sul blog che si possono vedere molto bene. Dovete immaginare Face, già lo dice. Insomma, una faccia che è tremendamente verosimile nel colore, nella mollezza, no? Che è mossa da un insieme di motorini e che la rendono tremendamente verosimile. Sì, Face, solo la faccia impiega 32 motori per essere controllata, e questi piccoli motori sono piccoli motori da modellismo che sono tutti contenuti nel cranio e tirano o premono le varie parti della pelle siliconica di questo robot, perché è fatto con lo stesso silicone che si usa per fare le maschere del cinema, in una maniera del tutto analoga a quella che i nostri muscoli fanno per produrre le nostre espressioni facciali, e quindi Face può riprodurre espressioni umane altamente verosimili. Mi pare che Face sia anche di genere femminile, se non erro. È calva, però ha dei, come dire, lineamenti molto graziati, o sbaglio? Abbiamo un fantastico set di parrucche che ci divertiamo a cambiare, intercambiabile a seconda delle esigenze. E bisex. Sì, Face, no, non riusciamo, perché i lineamenti sono decisamente femminili. Ecco, allora non sbagliavo. No, adesso entriamo nel dettaglio, perché Face ovviamente ha delle applicazioni anche molto che serie vediamo e subito nobili. Dopo, però cosa è successo? Come è entrato il rapporto appunto con Ridley Scott, il film Morgan e quant'altro? Ma noi, per produrre la nostra attività di ricerca, produciamo anche molti video di Face che fa appunto le sue espressioni facciali o che interagisce con le persone, con ricercatori, eccetera. E questi video sono tutti pubblicati sul nostro sito, il sito del Face Team, faceteam.it. Un'azienda che fa ricerca di elementi tecnologici innovativi per conto della Fox, che era interessata a promuovere il film Morgan, ci ha contattato quest'estate e ci ha chiesto se eravamo disponibili a programmare, adattare, diciamo, comunque sia mettere a disposizione Face per fare un reaction video, questi video di reazione che ora vanno molto e sono reazioni tipicamente di persone che ne viene inquadrata la faccia mentre che guardano i trailer dei film per la prima volta. E quindi hanno una funzione promozionale queste cose, no? Assolutamente sì. E lì l'idea un po' curiosa, insomma, era di vedere come un robot, quindi una macchina che sviluppa appunto queste emozioni artificiali, reagisse alla vita, tra virgolette, artificiale di Morgan. Era un po' questo il senso che loro hanno voluto dare. Esattamente. Infatti poi, se gli ascoltatori avranno modo di vedere il video, potrete vedere che Face sposa la parte del bambino artificiale. Si schiera col bambino. Quindi reagisce in maniera emotiva, diciamo, col volto, perché non, in questo trailer non parla Face, ma semplicemente rappresenta le emozioni, quindi reagisce anche a quello che sì, vede. Appunto, in maniera molto dolce a quello che vede. Senta Mazzei, però loro vi hanno dato, come dire, una specie di testo, di script, come si dice nel cinema, di parte che Face doveva recitare. E voi cosa avete fatto? Siete riusciti a fargliela imparare, per dirla brevemente? Esattamente, e questa è stata la parte più sfidante, perché Face per noi è un sistema per lo studio degli algoritmi di intelligenza artificiale e di interazione tra uomo e macchina, quindi a un certo punto farlo diventare un attore che segue uno scritto o comunque sia una linea guida, imponendoli da un certo punto di vista, tipo di comportamento, non è banale. Però Face è stato costruito in modo tale da essere altamente versatile e quindi adattabile ai vari contesti di ricerca, e abbiamo potuto adattarlo in un paio di giorni di lavoro abbastanza intensivo del mio gruppo anche a questo caso. Poi c'è da dire che insomma faremo in modo di mettere in tutti i nostri canali, sulla pagina di Radio 24, sul nostro blog, questo video, perché è curioso e va visto. Però adesso parliamo invece della parte che a noi interessa, che è la parte scientifica, il valore che ha Face poi nelle applicazioni pratiche, perché voi l'avete sviluppato. Face è un po', come dire, l'estremo della nostra attività di ricerca. Noi studiamo l'interazione tra uomo e macchine, e per macchine intendo dire lo smartphone che usiamo tutti i giorni, il PC, ma anche semplicemente un robot da cucina. Noi ormai interagiamo quotidianamente con queste macchine, il modo in cui lo facciamo non è per niente ovvio e è alla base di una vera e propria linea di ricerca che si chiama interazione uomo-macchina. Noi con Face facciamo esperimenti all'estremo, cioè ipotizziamo che un giorno le macchine possano avere la capacità di interagire empaticamente con le persone. Quello che apprendiamo grazie a questi esperimenti poi lo decliniamo in casi più semplici, come per esempio come costruire l'interfaccia di controllo di un robot da cucina in modo tale che sia intuitivamente utilizzabile, facilmente comprensibile. Non è più sostenibile la lettura del manuale di istruzioni, vista la quantità di tecnologia che stiamo mettendo nelle nostre case. Però ci possono essere anche delle applicazioni interessantissime, perché per esempio nell'autismo Face può stabilire un rapporto espressivo con i soggetti affetti che gli umani non sarebbero in grado di fare, no? Diciamo che Face ha delle espressioni, ha un'espressività molto semplice e stereotipata. Mi spiego meglio. Face fa una faccia felice sempre nello stesso modo. Questo è molto difficile anche per il più bravo attore in assoluto. Quindi nel momento in cui dobbiamo andare a cercare di insegnare a delle persone con delle disabilità relative alla comprensione degli stati d'animo e delle espressioni facciali come si interagisce in maniera sociale ed empatica con i propri interlocutori, è utile avere un sistema di veicolazione semplice, veloce e costante delle emozioni. È per questo che Face è stato usato nella terapia, nel trattamento, scusate, della sindrome dell'autismo. Sì. Bene, grazie Mazzei. Andate tutti al nostro blog. Diffonderemo assolutamente queste immagini di Face. Ovviamente daremo anche il vostro canale in cui appunto pubblicate anche i video, quelli seri, insomma, quelli di lavoro. Non quelli relativi al film Morgan. Grazie Mazzei, allora buon lavoro, ce n'è ancora da fare. Grazie a voi, buonasera. Chiara, siamo un po' tristi, perché arriva questa notizia. Ma a me mi intristisce un po'. Ma no, perché tu hai paura che ci sia un altro mondo bello come questo? No, che non lo vedremo mai. Va bene, dai, entriamo dentro. Siamo positivi. E qui con noi? Allora, qui con noi Patrizia Caraveo, intanto bentornata, ben ritrovata. Grazie. È direttrice di uno dei centri dell'INAF qui di Milano, dell'Istituto di Astrofisica Cosmica qui a Milano. Però è anche una collega, scrive un sacco di roba sui giornali. E infatti ha scritto proprio sul Sole 24 Ore un bell'articolo su Proxima B. Questa è la notizia che è uscita, insomma, le scorse settimane durante l'estate. Partiamo. Patrizia, raccontando chi è, cos'è Proxima B. Proxima B è un pianeta di massa non molto diversa dalla massa della Terra, che orbita intorno alla stella più vicina a noi, che si chiama Proxima Centauri. Sono poco più di 4 anni luce. Quindi per parlare con qualcuno su Proxima Centauri bisogna aspettare, diciamo, circa 8 anni. Uno dice ciao, come stai? E 8 anni dopo riceve bene, grazie. Cioè ci mette 4 anni ad andare e 4 anni a tornare, sì, grosso modo. Conversazione difficile. E molto banalizzando è stata definita come una terra gemella. Quello che noi sappiamo è che la stellina Proxima è una nana rossa, quindi è molto più piccola del Sole, circa un decimo del Sole, emette meno radiazione e il pianeta in effetti è molto vicino alla stella, e questo in un sistema come il nostro, con una stella come il Sole, lo arrostirebbe, mentre forse lì, una stellina piccola e freddolina non lo arrostisce. Diventa magari un equivalente della situazione. Diciamo, è un pianeta nella zona abitabile della sua stella. Ecco, però Patrizia, qui io dicevo all'inizio, ci arrivano queste belle notizie cariche di un futuro possibile, quando potremo vedere le biciclette che ci sono su Proxima. In realtà qua non si riuscirà mai a vedere niente. Però c'è qualcuno che ci sta lavorando. Lo so, ce l'ha detto. Chi è questo russo pazzo? Che Yuri Milner è un miliardario russo, ha fatto una quantità di soldi significativa grazie a qualche, diciamo, sito internet, però ha una educazione scientifica, lui ha una laurea in fisica e vuole rendere la scienza cool, e quindi ha lanciato queste che lui ha chiamato Breakthrough Initiatives, cioè delle iniziative, delle idee che vogliono far fare dei passi avanti, dei breakthrough. Per esempio, lui già diversi mesi fa, prima che venisse la notizia di questo pianeta intorno alla stella più vicina, aveva lanciato un'iniziativa che si chiama Starshot, che giusto appunto si proponeva di lanciare delle microastronavi verso Alfa Centauri, che è una stella che è in un sistema triplo al quale appartiene anche Proxima. Quando dici micro si parla di un grammo. Sì, si parla di astronavi piccolissime, super miniaturizzate, dove la maggior parte del peso, diciamo così, è una vela che deve permettere all'astronave di essere accelerata a una velocità che è una frazione significativa della velocità della luce, quindi molto più di qualsiasi razzo, usando dei potenti laser sulla Terra. Cioè viene spinta dalla Terra con dei laser che la lanciano nello spazio. Ed essendo così leggera, e questa va a 60.000 km al secondo, dovrebbe fare questo. Va bene, ma scusa Patrizia, quando poi arriva lì una roba che è grande un grammo, riesce a portare messaggi? Che foto fa, diciamo, per parlare di... Quello che anch'io ho chiesto a uno degli scienziati che lavorano a questa Breakthrough Initiative, e lui mi ha detto che appunto nei piani di Yuri Milner c'è un periodo di sviluppo di tutte le tecnologie richieste per riuscire a portare a termine questa missione visionaria di circa tra 20 e 30 anni. E poi con la partenza della missione, che durerà, ci metterà circa 20 anni per arrivare a Proxima. Va bene, ci hai dato qualche speranza. Va bene, grazie Patrizia, di nuovo buon lavoro, ci risentiamo presto. Grazie a voi. Ciao ciao. Ciao. Abbiamo solo 3 secondi per dire buona settimana a tutti e a tutte, ciao! Ciao!